Non so che da chiedere, sono allucinante. Va bene, già va bene, no, io ho pulito qua e ho chiamato quel cavi. praticamente basta, non ho giocato, poi mi sono sdraiato un po' di là e mi ci sono dormito. Così non fa neanche il sci, il gatto su greggio, non verrà, dimmi la verraia, ma... Sì, non è tanto così, non è che ci sta bene, ci mi sto riprendendo, ma non ce l'avevo io, ma mi vedo. Sì, la scalda Filomena adesso sta cominciando a bruciare, là. Adesso Filomena scalda tutto l'ambiente fra un po'. Thank you. questo che sono due della sua gente. Due siri di questo che sono due, sono due. Non mettono in mia camera da letto, non è sorci. E l'altro non lo so, non metterò qua da qualche parte, lo sono lì, vediamo. Io sto per tenerla, per tenere due in fila, sia la mia gente, ma non sono sei le siti. Oh, e neanche guardie. Ce ne ho altre quattro di quelle più di nuovo, nuovo, belle. Queste due della, della radio, no, di solito non sono figli sì. Ma se ce li hai, ti utilizzi qui, cosa ne, tanto cosa ne fai avere, avere sedie in più qua? Così quelli è precaballati, capito? E infatti, infatti, infatti, non lo fare così, non lo fare così. Vabbè, tengo mano al piano e sentiamo cosa mi dice, va? Sentiamo cosa mi dice. Aspetta un secondo, se lo tengo cognato. Ehi, fai, fai, non problema. Eccomi qua, sono rientrato. Come fa? Non mi ascolti? Non ci sei, dove sei? Non ti vedo. Parla. Cambio branco, sono rientrato, cambio, stai andando a fumare. Hola, hola. Sì, lì mi è capitato una volta andarci di fronte dove fanno pignate, così, con la zonaria, no? Di fronte alla zona della Trizia, sì. Ecco, sì, portiamo noi analisi di capito. Portiamo i campionamenti dell'acqua, fanno le analisi, sono convenzionati con noi. Insomma, c'è anche il laboratorio dove fanno le analisi per le persone. C'è un medico che è convenzionato con noi sempre, ci fa le visite e poi manda i reparti medici a Cagliari. E noi li mandano a casa. Da lì che io scoperto c'erano quel cazzo di reflusso, ma lì meno male ce ne sono accorti, lei è andato male, capito? Ma lì è una cosa bella perché insomma se c'è qualcosa ti mettono in condizione di sistemare subito la situazione. Ma è giusto che sia così però, perché adesso con tutto questo fatto di trauma in compagnia bella è sempre questo oggetto alle visite, capito? Certo che sì. Ma no, vabbè, è una cosa normale per loro fare queste visite, non è che è una cosa di fuori normale, è normalissimo. Tutte le aziende si riescono a fare queste visite per far sì che il personale sia sempre idoneo al servizio, eccetera. Noi siccome abbiamo anche tesserini sanitari e quindi per aggiornare i tesserini va per idoneità e quindi ci fanno queste visite. Per noi va bene, noi sappiamo come comportarci. Giusto, destino sanitario, quello va sempre aggiornato, è vero. No, adesso noi ci hanno spostato lì a Piazza dei Cigni, quel padiglione nuovo hanno fatto, lì capito, che c'è col baretto sotto. E domani mattina dovremmo andare lì alle 8, capito, dobbiamo essere lì, capito, senza mangiare, senza niente. Si fanno le analisi e tre che ballacchi diciamo, dai. Digiuno, cioè di andare a digiuno anche lui, come sempre, però mangiare una cosa utile per tutti, è giusto che sia così, se non conosce andare a fumare, franco. È andato a mettermi la divisa la campagna. E come mai? Cosa vuoi andare a portare il cuore giù? La divisa la campagna, lo pigiama. Non le sopporto le attività. No, sì, obbligatamente, perché appunto per il lavoro che faccio io è obbligatorio. Ho praticamente, ho preso un pediglio, quello della caccia, le gorette che mi metto quelle, perché rimane bene, bello caldo e non mi fanno male neanche i piedi. Ho quella tipo di pista, mi ha detto due piedi, guarda, come stavo spaccando. No. A parte che non respira più il piede, non lo sa, io arrivo a casa, cavolo, non avevo la scarpa e sono con la piantella bianca, non so vuol dire bianca, è una cosa allucinante. Ok, perché sulla gamba del piede non respira, è piccolo forte. Non respira, è così. Allora, purtroppo bisogna metterle, perché se mi trovano senza le scarpe antifortunistiche sono dolori, eh. Ehi, sei sparito per un altro, Frank. No. E non stavi rispondendo, e tu la Frank era andata a fumarsi la sigaretta. E me la ginocchio perché una cruizione. Ma mia, la carità. Tu pensi all'ultimo che ho fumato lì, e lui è la carità, troppo sono come questo. Via. È bello che non riesco neanche a buttarmi via, capito, questo cacchio di sigaretta di merda. È un viziaccio, non ci riesco, e cosa vuoi fare? Lavorando fumo poco, fate. Io fumo quando sono a casa, mi risalgo i roghi, nel baracchino, e allora fumo. Però sul lavoro, quando sto lavorando, faccio le piante elettrici, non fumo una cabanetta di una sigaretta. Beh, quello è un bene, fra. Caspita, sono un bene, ma non un grande, grandissimo. No, io lo stesso lavorando, sono impegnato, no? Pochissimo, ma quando così mi sto parlando al baracchino, al coso, mamma mia, ci partono le sigarette una dietro l'altra, ma come ne accorgo? Cosa fumi a me? No, di alla blu sto fumando. Che se me c'è l'altro fossi, mamma mia! Non so più le messe di prima, no? Hanno inciampato tutto talmente tabacco, guarda che io le schifo con le sigarette qua. Poi sono sigarette un bel pezzo, sto fumando leggero lo stesso, le light, almeno sono leggere con sigarette. Capacciato, andiamo qui, quelle già sono leggere. Se no non so forse di nuovo, lo dice lui, prima fumavo lui, si ma sto ammazzato, sto fumando le light. Allora sono leggere, fatto di male non appresci, però me non mi continua, sai, almeno un po' salvo. Già lo vedo, anche se leggera o non leggera, la sigaretta è sempre un veleno. È un veleno, sì, capito? È un grande veleno. Purtroppo non se ne può fare a meno, subito è venuta a mano. Quel vizio, che bel vizio, via. Una cosa incredibile, è una cosa incredibile, ui. E quindi questa radio, questo baracchino, non è arrivata ancora? Ah, non so come anch'io, guarda, tu, ma lo so, io fra, voglio vedere un apparato Siria, non c'è niente da fare. Capito, voglio prendere una cosa Siria. Prendere qualche cosina in più fra, però voglio una cosa Siria, capito? E posso dire anche qui, ti posso una luce e basta, capito? Allora, se te la stai prendendo, aspetta, perché ti compro una cosa Siria? Cosa devi fare? Dici giocattolini, cosa devi fare? Ti piano un bel di corpi, non è bel di niente la tua casa lì, non puoi parlarci perché non capisci nulla, capito? Una radio selettiva che non prende a colpi, ti va bene lì. Allora, io guarda, sono intenzionato, niente, prende questa stazione fissa, prende un pochettino di più, fracca, sono arrivato quasi una cosa buona. Non hai fagli. Allora non so cosa consigli, dammi Gaetica, tu non so cosa pigliare, cosa non pigliare. Cioè, cosa si può pigliare con l'apparato, non lo so. Prenditi un FT450 della Yaesu. Quanto viene questo? Lo senti, questo che sto usando io adesso, ti piace? È bello bello. Cosa viene questo? Io ho preso usato, però era praticamente nuovo, ho pagato meno di 600 euro, roba pare 5,90, c'ha la correttore entro contenuto, e spara, adesso come adesso sta andando intorno ai 110-120 watt. E come microfono uso l'MC60, è un'antenna e una ringo. Caspita, è bellissimo, ma funziona per visi così? No, funziona a 13.8. Ormai io ce l'ho con un alimentatore switching, si ritirano a prezzo, si ritirano, capito? Si ritirano bene. Io quello che siete adesso è questo qua, lo IAS FT450 con l'MC60. Ecco. Cazzo. Ehi, adesso me lo scrivo e così me lo ordino. Capito, l'affare dopo le Siria, no? Ci vuole l'apparato di genere, no? A pigliare slatte, le cose, io mi ho cercato le piene queste apparatini così. Andrea, avanti, buonasera. Sì, buonasera a tutti, ciao Roberto, come sta fatto? Ho sentito a Falchetto, Franco, mi è sembrato Massimiliano, tu sei Massimiliano. Sì, ciao Roberto, comunque buonasera Franco, che non ho salutato, ho fatto male un cazzo. Buonasera a tutti, sono qui a pratico, se no non esco vivo. Dimmi Roberto, tu vuoi sapere, ho già fatto l'ordine, però tutti i finali e i piloti ne arrivano dal magazzino americano, ci vuole un po' di tempo. E vabbè, quando è pronto avviso? Ci riusciamo a trovarlo o se ne parlava prossimo? Penso che partiamo a gennaio, perché ho chiamato venerdì, mi sono sentito per altre cose e mi ha dato la disponibilità di tutto quanto, però mi ha detto che ci vorrà tempo perché non fanno le spedizioni singole, raccolgono un bel po' di materiale.